puntata dell'11 febbraio di Radio Zagadà, on air sempre sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, in FM sul 98.0 a Milano e a San Giuliano Milanese sull'88.0. Ricordiamo che potete ascoltarci anche in streaming dal sito di Radio Onda d'Urto, dal nostro blog cronachedi.regime.noblogs.org, cliccando su Ascolta la diretta. La radio inoltre si può ascoltare anche in DAB cercando il canale Onda d'Urto. Ricordiamo i nostri contatti, potete scriverci via Telegram al 351-55-79698 oppure tramite mail scrivendo a radiotagadà@autistici.org. Potete contattarci anche via Facebook ed Instagram. Bene, iniziamo. Oggi puntata alternata con 4 interviste e 4 super doppiette musicali del nostro buon DJ. Parleremo innanzitutto delle iniziative in solidarietà ad Alfredo Cospito, compagno anarchico in sciopero della fame ormai da più di 115 giorni e recluso nel carcere di Opera. Quindi le iniziative di solidarietà che ci sono state a Milano settimana scorsa. Parleremo dell'occupazione che c'è stata all'Università Statale di Milano, poi del presidio al carcere minorile del Beccaria del 5 febbraio ed infine della situazione al CPR di Via Corelli a Milano. Come al solito in chiusura ricorderemo tutte le iniziative che ci saranno nella settimana che viene a Milano. Bene, iniziamo subito con un po' di musica e poi torniamo in diretta. Vai Dynamite! Iniziamo questa puntata con un po' di musica punk rolleggiante. Questi erano i Death, band proto-punk formata a Detroit nel 1971 dai fratelli Bobby David e Dennis Hackney con il brano Keep on Knocking. Come detto in anticipazione di puntata, oggi avremo 4 interviste e volevamo partire a parlare dalle iniziative che ci sono state settimana scorsa a Milano in solidarietà per Alfredo Cospito. Ne parliamo con una compagna che è in linea. Ciao, ci senti? Buongiorno a tutte e tutti. Sì, allora, la settimana scorsa, venerdì e sabato, ci sono state due iniziative a Milano. Venerdì ci si è trovati alle 18 in presidio davanti alla stazione centrale, un presidio estremamente partecipato, dove si sono susseguiti una serie di interventi e dopodiché si è partiti per un corteo che voleva attraversare alcune vie della città nella zona adiacente. Quando si è giunti nei pressi di Piazzale Loreto, la polizia si è schierata impedendo il passaggio e il corteo è continuato fino a tornare al luogo dove era iniziato il presidio in zona centrale. Il giorno dopo, sabato 4, invece c'è stato anche un presidio, anche lì è molto partecipato, fuori le mura del carcere di Opera, luogo in cui è stato trasferito Alfredo da alcune settimane, dato che appunto ciò che sostengono è che gli possa ricevere le cure necessarie vista la sua condizione. All'interno del 41 di Opera, tra l'altro, è prigioniero Marco Mezzasalma, che insieme a Roberto Morandi e Nadia Lioce si trova in 41 bis da 17 anni. Il presidio a Opera appunto è stato molto partecipato, c'è stato un susseguirsi di tantissimi interventi. Ad un certo punto un gruppo di compagni si è spostato attorno alle mura del carcere per portare un saluto anche agli altri prigionieri che non avrebbero sentito l'azione del presidio vista la grandezza del carcere. E si è continuato con tutta la giornata con musica. Sente male. Clienti che volevano comunicare con chi era chiuso. In entrambe le occasioni, un fatto da notare, oltre all'ingente schieramento di forze dell'ordine, era una presenza offensiva dei giornalisti, a cui è stato chiesto più volte di allontanarsi. Soprattutto visto la mostrificazione che stanno facendo in questo periodo su Alfredo, sulla sua lotta e sugli anarchici. Alla fine del presidio a Opera un altro fatto spiacevole è accaduto e che alcuni compagni si sono resi conto che le macchine erano state aperte ed erano stati rubati alcuni oggetti, cosa già successa tra l'altro ad un altro presidio un po' di anni fa al CPR. Quindi appunto per il futuro una grande attenzione a tutti, visto che qualcuno ha l'inizietto di frugare nelle macchine altrui. Entrambe le giornate hanno espresso la forza di questa lotta, che ha dimostrato ancora una volta di essere una lotta di tutti e di tutte e che coinvolge veramente tantissime persone. Per rilanciare un po' gli appuntamenti milanesi, questo sabato ci sarà un corteo che parte da 24 maggio alle 16. E questo è quanto. Sì, hai detto che comunque durante il presidio fuori al carcere di Opera c'era una presenza massiccia dei giornalisti che stanno provando insomma ora al momento, dopo aver dato un po' risalto alla questione di Alfredo, diciamo stanno invece cercando il più possibile di far passare che ci sia un accordo tra Alfredo e dei mafiosi per l'abolizione del 41 bis e quindi diciamo sono stati allontanati. A riguardo ti volevo chiedere, siccome la situazione di Alfredo, insomma, noi la stiamo seguendo con particolare attenzione dal 20 ottobre, sia come Radio Tagadà che anche proprio con Radio Onda d'Urto, volevamo capire un po' di cose, se ci sono degli aggiornamenti riguardo la situazione di Alfredo, perché è notizia di poche ore fa comunque del rigetto da parte del ministro Nordio della richiesta di declassificazione di Alfredo dal 41 bis al circuito insomma di alta sicurezza, Quindi volevamo capire un po' questo cosa andava a significare e quali sono gli altri passaggi, se ci sono altri momenti, insomma, poi legali, burocratici che Alfredo sta aspettando. E ricordiamo che comunque da quando è arrivata ad opera, nonostante sia stato villantato da parte, insomma, del DAP, del Ministro della Giustizia, che la salute e la tutela dei detenuti, insomma, è la prima cosa da rispettare durante i periodi di carcerazione, quindi che Alfredo è stato trasferito ad opera per essere seguito maggiormente dai medici, che al momento ancora il medico, di fiducia del nostro compagno in sciopero della fame non è ancora entrato, entrerà per la prima volta nel carcere di Opera appunto sabato. Quindi volevamo chiederti Sì, un po' esatto. degli aggiornamenti, se hai, o almeno, di farci un quadro, insomma, sulla situazione Allora, legale che si appunto, verrà a creare. ieri appunto c'è stato il rifiuto, il rigetto da parte di Nordio rispetto all'istanza dell'avvocato Flavio Rossi Albertini, rigetto verso il quale verrà fatto un ricorso. Il prossimo step sarà la Cassazione tra 15 giorni del 24 febbraio. Ricorso in Cassazione rispetto appunto alla decisione presa a dicembre sul 41 e si è in attesa appunto di questo momento. Lui è stato trasferito ad Opera con la scusa che fosse un luogo dove poteva essere tutelata la salute, quando invece la situazione sanitaria al carcere di Opera è agghiacciante, manca personale e i macchinari necessari, tra l'altro abbiamo saputo che non sono funzionanti in generale, tutti i macchinari necessari alla tutela della salute dei prigionieri. Opera però ha un suo reparto all'interno dell'ospedale San Paolo, luogo all'interno del quale vengono trasferiti i prigionieri quando appunto si trovano poi in condizioni critiche, ma appunto all'interno del carcere non hanno il personale, non hanno gli strumenti e non è ancora stata data la possibilità al suo medico di fiducia di entrare all'interno della prigione a visitare Alfredo. Il prossimo step, appunto, di cui si è in attesa è la Cassazione del 24. Ok, perfetto. Noi speriamo di avere notizie confortanti dal medico che andrà sabato a visitare Alfredo. Rilanciamo, l'appuntamento di sabato dalle ore 16 in piazza 24 Maggio per un corteo appunto a Milano, in solidarietà ad Alfredo contro il 41 bis, l'ergastolo ostativo e la sua lotta. E noi ti ringraziamo e ci aggiorniamo prossimamente. Grazie per la disponibilità. Grazie, buona giornata a tutti e tutte. Ciao, grazie. E noi ora continuiamo con un po' di musica, doppietta musicale, come detto prima, sentiamo gli Sham 69 e i Dogs. continuiamo sull'ondata punk rock di oggi della nostra puntata a livello musicale. Prima doppietta del nostro DJ, abbiamo ascoltato prima, come detto, gli Sham 69, che sono un gruppo musicale britannico di genere Oi, in attività dal 1976. Il brano Run Wild Run Free è tratto dal disco The Game del 1980. E poi ci siamo sentiti Algomania dei Dogs. I Dogs erano una band punk rock new wave francese di Rouen, formatasi nel 1973. Questo brano, appunto Algomania, è tratto dal disco Walking Shadows del 1980. Andiamo avanti ora con le nostre interviste e, come detto, proviamo a fare un collegamento con una compagna che ci spiegherà un po' cosa sta accadendo all'Università Statale di Milano. Ciao, ci senti? Ciao. Ciao, ciao, grazie e benvenuta a Radio Tagadà. Allora, niente, praticamente è stata occupata, a quanto pare, pochi giorni fa l'Università Statale di Milano, ma volevamo fare un quadro un po' della situazione generale a riguardo, quindi volevamo chiederti se avevi voglia di partire un po' dalla situazione che si è creata in università, un po' dal post-Covid. Certo. Gli ultimi due anni pandemici hanno sicuramente, da un lato, raffreddato quella che è la normale uso, la normale affluenza degli spazi universitari, dall'altra invece paradossalmente è proprio in quei due anni che hanno, secondo me e secondo altre persone con cui mi sono confrontata, hanno raggiunto un po' la massima partecipazione, perché appunto si è vista un'assemblea molto eterogenea, composita di persone che erano le loro prime volte, diciamo, i loro primi cortei, le loro prime assemblee, che hanno tentato di formare un'assemblea studentesca riuscendoci contro il Green Pass. A seguito di questo, appunto, gli spazi universitari sono ancora più inagibili rispetto che al solito, perché per accedere alle biblioteche, così come per accedere alle lezioni, bisogna prenotare attraverso un'app. Gli unici luoghi parzialmente frequentati sono i chiostri. In più, in queste settimane le lezioni sono sospese perché non è ancora iniziato il secondo semestre e quindi gli spazi universitari sono ancora più tristi. Ecco. L'unico elemento di nota è stato durante quest'autunno l'occupazione del controchiostro da parte del gruppo Cambiare Rotta Milano, che è una rete nazionale. Ci sono altri gruppi che si muovono all'interno della statale e all'interno in generale dell'Università Milano con cui si è provato a dare una risposta e allargare la mobilitazione per Alfredo e per il 41. Quindi ecco, questo è lo scenario prima della scelta di occupare la statale. La scelta di occupare la statale deriva da appunto un'interazione tra singoli gruppi come Ecologia Politica, Cambiare Rotta, l'Assemblea di Scienze Politiche e altri gruppi, altri singoli che più o meno si conoscevano e hanno deciso di conoscersi e utilizzare un po' questa occasione come banco di prova anche per testare quelle che sono le capacità di una risposta, diciamo così, rapida, no? E questo gruppo appunto eterogeneo di persone ha pensato e poi realizzato quella che mercoledì si è concretizzata nell'essere l'occupazione prima del chiostro farmacia, un chiostro nella sede di Festa del Perdono che è normalmente chiuso e inaccessibile per gli studenti, viene aperto solo in occasioni commerciali come quello che è il fuorisalone, quindi appunto una volta all'anno, e quindi prima si è occupato questo chiostro, all'interno di cui sono stati fatti diversi interventi, microfono aperto, lettura da dentro il carcere, si è pranzato insieme e soprattutto ci si è iniziati a conoscere e si è iniziato a condividere quello che è un fare pratico legato al dire ok, come teniamo lontano la Digos, come vogliamo relazionarci con i giornalisti, come affrontiamo il problema della polizia dentro la statale. E quindi da partire da questi problemi pratici è nata un'interazione molto concreta che ha portato poi alla scelta di lasciare il chiostro farmacia e di spostarsi in un altro corridoio dove c'è l'aula 104, occupare l'aula 104, prendersi il corridoio e da lì in avanti fare un'assemblea studentesca pomeridiana che ha avuto una buona partecipazione, attorno a cui si è ragionato di come rilanciare le lotte anche le prossime settimane, e poi cenare insieme e finire la giornata con un'assemblea pubblica dove è stato presentato anche il corteo di questo sabato. L'elemento secondo me più importante risaltato è sicuramente quello dell'interazione appunto tra parti che normalmente non collaborano in maniera attiva in città, e quindi di un consolidamento di una rete informale creatasi anche a fronte alle mobilitazioni no Green Pass, che è stata capace però di far fronte sia dei problemi pratici che della possibilità di costruire un discorso che appunto non vuole essere abbandonato e che è una spinta comune, dato anche quello che è stata l'occupazione della Sapienza di Roma il 2 febbraio, a cui è seguita l'occupazione della Statale, e l'8 febbraio, il giorno immediatamente successivo, quello dell'Orientale di Napoli, e ieri la San Sebastiano a Venezia. A fronte di questa risposta, diciamo, abbastanza diversificata sul territorio nazionale, si sta ragionando anche sulla possibilità di provare ad essere in relazione un'università con l'altra e pensare se è possibile qualcosa di questo tipo, ecco, per le prossime settimane. L'assemblea serale di presentazione del corteo si è invece conclusa con un corteo spontaneo che è uscito dalla Statale, ha lasciato la Statale e si è mosso per le vie del centro, sciogliendosi poi presso le colonne di San Lorenzo. Sì, allora, da quello che dicevi tu dall'inizio è abbastanza interessante, insomma, la dinamica che ci hai descritto, nel senso che avevamo fatto anche una chiacchierata con un altro compagno riguardo la nostra rubrica che facciamo in maniera aperiodica, La città che cambia. Avevamo parlato un po' della nuova sede che si voleva dare al Politecnico di Milano in zona Expo, e ci ha un po' descritto l'andamento, tra virgolette, ultimo, nella quale si direziona la volontà di chi gestisce l'università, insomma, di come far vivere appunto l'università, che deve diventare proprio un luogo il meno possibile vissuto da parte degli studenti, da chi, insomma, deve essere attraversato solo per andare a lezione e studiare. Come dici tu, come hai ben descritto, ci sono delle zone, soprattutto di Statale a Milano, che vengono aperte solo per i grandi eventi, che sono assolutamente poi scollegati, diciamo, degli eventi universitari. Fuori salone c'entra ben poco, se non nella misura in cui l'università ci si relaziona per delle questioni meramente economiche. Quindi è molto interessante questo aspetto che, insomma, ci confermi ogni volta che proviamo a parlare con dei compagni sull'università. Esce fuori questa cosa qui da rimarcare. Secondo me di sicuro molto interessante il tentativo e questa cosa che si è realizzata di occupazione dell'università, perché si va appunto a provare a spaccare questa modalità di isolamento che si vuole creare all'interno degli spazi che dovrebbero essere adibiti, insomma, alla cultura, allo studio, all'accrescimento personale, non solo, perché andare all'università non vuol dire solo studiarsi libri e dare gli esami e andarsene via. Quindi questa cosa è molto interessante. Come hai detto tu, ci sono state altre occupazioni nel frattempo in altre città, Napoli, Roma e Venezia. Aggiungerei che anche dei licei stanno iniziando ad occupare a Milano. C'è stata l'occupazione dei Severi Correnti e anche lì, insomma, tra le varie tematiche, tra i vari collettivi che hanno organizzato gli studenti liceali, c'è stato anche lì un approfondimento sulla questione del 41 bis e sulla questione di Alfredo. Io ti ringrazio. Prima di chiudere, però, volevo sapere se, insomma, ci sono altre iniziative in programma per settimana prossima. Hai detto già che c'è l'assemblea quotidiana, insomma, degli studenti, però se avevate già qualcosa in programma, se hai voglia di rilanciarla. Certo, volevo aggiungere velocissima, secondo me, due fatti di rilievo della giornata che mi ero persa di, appunto, di raccontare, legandomi a quello che dicevi tu. Innanzitutto, durante l'assemblea, è stata un'assemblea, un'assemblea studentesca e non solo universitaria, per cui appunto c'è stata una partecipazione anche da studenti liceali, cosa che abbiamo ricercato, e sempre a fronte di questo, diciamo, di questa nuovi rapporti, nuovi confronti che si vanno a creare a fronte anche di una mobilitazione come quella di Alfredo, nel tentativo di rilanciarla, durante quella giornata c'è stato anche un convegno organizzato dall'università nella sede di Via Conservatorio, dove c'è Scienze Politiche, dove una parte di noi è andata, ha partecipato e ha portato quello che è stato il nostro racconto, quello che è avvenuto nel frattempo, e lì c'era una cospicua partecipazione studentesca, e sono stati invitati ad andare alla Statale. La Digos era presente all'interno del convegno universitario che filmava durante l'incontro. Questo era solo per dire come evidentemente ciò che fa più paura e ciò che secondo me sta riuscendo è proprio i nuovi scambi, le nuove reti che si vanno a creare anche tra parti che normalmente non sono particolarmente in relazione. E proprio per preservare questo aspetto, che a nostro avviso è stato il più importante di questa giornata, si cercherà nella prossima settimana di ritrovarsi e di capire una forma comune per poter fare un passo avanti, senza perdere appunto, senza disgregarsi ciascuno nella sua frammentazione, ma provare a rilanciare in maniera comune. Per cui non ci sono già delle iniziative fissate, ma penso usciranno molto a breve, ecco. Perfetto, noi ti ringraziamo, hai fatto bene anche a sottolineare quest'ultimo aspetto che hai detto tu, nel senso che la militarizzazione che avanza all'interno dell'università di sicuro preoccupa lor signori e lor signore, tant'è che la Digos che va a riprendere un convegno, ecco, è una cosa abbastanza aberrante e sappiamo bene che comunque l'autorizzazione gliela dà sempre il rettore, che probabilmente è anche responsabile di questa cosa qui, sia della volontà di cercare di creare un'università solo a uso e consumo, insomma, degli studenti, vai a lezione, fai l'esame, vai in libreria, studi e te ne vai, e quindi anche questa forma di auto-organizzazione e di relazioni che si stanno creando fa paura. Noi ti ringraziamo e speriamo di sentirci nelle prossime con buone nuove. Grazie a voi, buona continuazione. Perfetto, grazie mille, gentilissima. Ciao, buona giornata. Bene, ora noi continuiamo con un po' di musica. Siamo sempre DJ, che dici, su un po' di punk rock. Oggi sei bello carico. Dai, vai, Red Alert e Mercenary God. Boys, it's me boys, it's me boys, it's me boys, it's me boys, it's me boys, it's me boys, it's me boys, it's me boys, it's me boys, it's me boys, it's me boys, it's me boys, it's me boys, it's me boys, it's me boys, it's me boys, it's me boys, it's me boys, it's me boys, it's me boys, it's me boys, it's me boys, it's me boys, it's me boys, it's me boys, it's me boys, it's me boys, it's me boys, it's me boys, it's me boys, it's me boys, it's me boys, it's me boys, it's me boys, it's me boys, it's me boys, it's me boys, it's me boys, it's me boys, it's me boys, it's me boys, it's me boys, it's me boys, it's me boys, it's me boys, it's me boys, it's me boys, it's me boys, it's me boys, it's me boys, it's me boys, it's me boys, it's me boys, it's me boys, it's me boys, it's me boys, it's me boys, it's me boys, it's me boys, it's me boys, it's me boys, it's me boys, it's Torniamo in diretta, ci siamo sentiti due tracce, la prima erano i Red Alert con It's My Boys. I Red Alert sono stati un gruppo punk-oi britannico formatosi a Sunderland in Inghilterra nel maggio del 1979. La band era costituita da un quartetto che ha registrato tre album in studio, ed è apparsa in numerose compilation, tra cui Punk and Disorderly e Carry On Oi. Il brano It's My Boys è tratto dal disco We've Got the Power, pubblicato per l'etichetta No Future nel 1983. E poi subito dopo c'erano i Mercenary God, appunto loro sono un gruppo punk italiano di Gemona del Friuli, in provincia di Udine, nato alla fine del 1979. Il brano, Burning Generation, è tratto dall'omonimo disco pubblicato nel 2004. E ora torniamo in diretta con Radio Tagadà. Questa puntata è, diciamo, speciale, riservata tra virgolette alle iniziative di solidarietà per Alfredo. Abbiamo parlato con due compagne, una che ci ha spiegato un po' quello che è successo il 3 ed il 4 febbraio a Milano, E poi abbiamo parlato con una compagna che ci ha un po' raccontato dell'occupazione in statale appunto in solidarietà con la lotta di Alfredo contro 41 bis ed ergastolo ostativo. Continuiamo con il proseguo della nostra puntata, andiamo a parlare un po' di ciò che succede negli altri lager milanesi. La compagna nella prima intervista ci ha accennato del presidio ad Opera, ma il giorno dopo a Milano c'è stato anche un presidio al Beccaria e ci facciamo un po' raccontare da una compagna come andata. Ciao, ci senti? Sì, sì, vi sento. Voi mi sentite? Sì, sì, è forte e chiaro. Ciao, grazie forte e benvenuta chiaro. A Radio Tacatà. Allora, niente, come detto, noi volevamo parlare anche un po' di ciò che succede negli altri lager milanesi e quindi volevamo un po' capire, prima di andare a farci dare un resoconto del presidio del 5 febbraio al carcere minorile del Beccaria, le ultime vicissitudini che ci sono state a dicembre e gennaio, insomma, in quel di Bisceglie. Sì, esatto, infatti questa domenica siamo andati a fare lì un presidio, nonostante appunto la situazione della lotta in solidarietà ad Alfredo sicuramente abbia dei ritmi serrati, però non bisogna dimenticarsi che anche altre persone, visto appunto che la lotta di Alfredo non è proprio solo per se stessa, anche altre persone stanno portando avanti delle proteste nelle loro carceri. Qua a Milano esiste un carcere minorile che una volta veniva descritto come un carcere modello di rieducazione. La realtà ovviamente è che è un carcere esattamente come tutti gli altri e appunto a dicembre ci eravamo recati lì e avevamo fatto già un saluto per appunto ci eravamo avvicinati alle mura, avevamo parlato un po' con i ragazzi perché si riesce a parlare molto bene, loro già manifestavano dell'impazienza perché già lamentavano maltrattamenti e pestaggi. E il 25 dicembre infatti leggiamo dell'evasione di 7 ragazzi che erano riusciti a scavalcare le mura del carcere ed andarsene. Già subito dopo questa evasione un gruppo di persone era tornata lì a sentire un po' quali erano gli umori, cos'era successo e i ragazzi appunto hanno raccontato che 7 ragazzi erano riusciti ad andarsene e che loro poi avevano poi continuato la protesta e che erano stati anche duramente repressi e il loro umore appunto non era proprio altissimo in quei giorni. I ragazzi poi sono stati, tra alcuni si sono riconsegnati, alcuni sono stati ripigliati, molti ragazzi sono stati trasferiti in carceri per adulti perché appunto nel carcere minorile non ci sono solo minorenni ma anche maggiorenne a tutti gli effetti e appunto la situazione lì dentro non è molto chiara perché ovviamente poi quello che ci arriva da fuori spesso è mediato dai giornali e non, come sappiamo non corrisponde sempre alla realtà. Diciamo che lì al Beccaria ci sono dei lavori in corso da tantissimi anni che mettono appunto in seria difficoltà la vita all'interno del carcere tra sovraffollamento. Ci sarebbero disponibili 31 posti, in realtà le persone rinchiuse lì dentro sono 46 e anche in seguito all'istituzione di un reparto di isolamento in seguito alla pandemia del Covid gli spazi all'interno del carcere sono stati ridotti e spesso quando andiamo lì riusciamo ad incrociare qualcuno che conosce, che ha amici rinchiusi, che ci dice che appunto nonostante l'immagine che viene data del carcere sia quella di un carcere che offre piene possibilità di formazione, di spazi, in realtà gli spazi che i ragazzi poi possono usare se li devono conquistare tramite lotte anche molto molto forti, insomma, e quindi lo scontro con le guardie è sempre all'ordine del giorno. La polizia penitenziaria e gli agenti che sono stati messi lì a lavorare sono circa 70 e sono tra l'altro molto giovani, freschi di formazione, hanno prevalentemente avuto una carriera militare, quindi insomma reagiscono a qualsiasi conflitto in modo abbastanza duro. E appunto, quindi la situazione è, loro hanno bisogno anche di un supporto esterno, nel senso la situazione dentro appunto non è per niente tranquilla. Per questo appunto a gennaio dai giornali abbiamo saputo anche che c'è stato di nuovo un materasso incendiato in infermeria, altri ragazzi che provano a sfondare gli sbarramenti di un'ala del carcere. Ovviamente i giornali ci dicono che è stato l'incendio del materasso, era una crisi di astinenza di due ragazzi e lo sfondamento era per tentare di un gruppo di giovani voleva assolutamente andare a picchiarsi con un altro gruppo di giovani, ma vabbè, queste sono fonti che sicuramente noi non riteniamo affidabili. Abbiamo ritenuto necessario chiamare un presidio pubblico fuori dal carcere anche per mandare anche un monito che appunto quei ragazzi sono, insomma l'attenzione sulla situazione lì dentro è alta. Quello che è successo è che un altro dei motivi volevamo anche sapere da loro direttamente quello che stava succedendo e ovviamente quello che è successo è che i ragazzi sono stati spostati in un'altra ala del carcere e non si è potuto parlare con loro. Ma noi sicuramente non ci fermeremo e torneremo fuori da quel carcere. Adesso non abbiamo ancora iniziative in programma, ma sicuramente poi le faremo girare appena possibile. Sì, di sicuro poi la situazione al momento è abbastanza frenetica perché la questione di Alfredo sta diventando sempre più grave dal momento in cui Nordio ha rigettato, insomma, la richiesta dell'avvocato, come abbiamo sentito, come abbiamo discusso prima con la compagna, quando ci parlava dei presidi del 3 in centrale, del 4 ad opera, e quindi diciamo la situazione si sta aggravando, le condizioni di salute sono sempre, cioè, di sicuro vanno peggiorando perché ormai sono 115 giorni che Alfredo non sta mangiando e quindi diciamo i compagni e le compagne stanno seguendo con molta attenzione questa situazione di Alfredo ed è molto complicato anche cercare di fare altre iniziative. Però, come hai detto tu, ci sono i reclusi e le recluse anche in altri lager milanesi. Poi andremo a fare anche un'intervista con una compagna e parleremo del CPR di Milano di Via Corelli. Sì, certo. No, se posso aggiungere una cosa, Sì. effettivamente cioè, quello che si è visto quest'anno, vabbè, io ti dico per quanto riguarda i minorili, però appunto poi anche la lastra di Alfredo ha sollevato un dibattito molto ampio e tra l'altro appunto, visto che c'è il CPR, sicuramente ne parlerete più tardi, anche lì ci sono forme di protesta anche molto forti, appunto avevamo saputo di questo ragazzo che si era cucito la bocca e comunque questa escalation di rivolte che sta avvenendo da ormai diversi anni, secondo me mette proprio in luce il fatto che al di là delle lotte singole, che possa essere quella di Alfredo, quella di questi ragazzi, quella di nei CPR o in un istituto singolo, è proprio il sistema di detenzione che va proprio abolito, cancellato da questo mondo. Sì, insomma, come stavo dicendo prima, la questione che i compagni e le compagne sono riusciti in un momento così frenetico a andare comunque sotto quel lager lì, fuori la metro di Bisceglie a Milano, è molto importante, nonostante, il molto impegno e la stanchezza che c'è anche in città. La cosa che dicevi tu, di sicuro, cioè, te la confermo pure io, nel senso che poi dal mio personale punto di vista, quando i giornali dicono all'interno del carcere c'è stata una rivolta, hanno incendiato un materasso per una questione di astinenza, sappiamo bene che sono tendenzialmente quasi sempre menzogne. Quando ci sono stati morti ammazzati da colpi di pistola, scusate, durante le rivolte del 2020, per il Covid all'interno delle carceri, le morti sono passate all'inizio come morti per overdose perché i detenuti sarebbero subito andati, insomma, a prendersi le droghe dalle sezioni sanitarie delle carceri. Sappiamo che la narrazione è fatta un po' per cercare di giustificare anche l'uso della potenza indiscriminata che si ha all'interno di quelle quattro mura. Dai, noi ti... Certo, va bene. No, no, no, vai, vai. No, certo, anche perché queste cose vanno proprio a rafforzare il ruolo che ha il carcere, quindi quello di creare dei mostri e dei nemici da rinchiudere ed escludere dal resto della società. Quindi tutti i giornalisti in questo fanno proprio, completano il lavoro, insomma. Sì, come vabbè, lo ripetiamo, però non fa mai troppo male ripeterlo, come l'accostamento che si sta facendo sempre più spesso per giustificare il 41 bis e il fatto di non doverlo togliere ad Alfredo, che ora la sua lotta la sta provando a portare avanti con i mafiosi. Per chi sapesse la storia degli anarchici, insomma, non è che si va d'amore e d'accordo proprio con una realtà istituzionale Esatto, e poi come quella soprattutto ce mafiosa. l'hanno messo loro lì dentro e sono cioè, le uniche persone con cui avrebbe potuto avere la possibilità di parlare. Va bene, dai, noi ti ringraziamo, speriamo di risentirci presto per pubblicizzare altre iniziative, non solo fuori al Beccaria, insomma. Dai, Certo, grazie mille, grazie, buona trasmissione. un abbraccione, grazie mille a Un te, a abbraccio. presto. Bene, ora ci sentiamo un po' di musica con un bel gruppo, fine anni 90, inizio 2000, questa è Fantasma dei Linea 77, vai Dynamite. Vivo guardando le stesse facce, vedendo le stesse storie, pensando ho quello che volevo, come il vento che soffia prima della tempesta. Un brivido percorre la schiena, le spalle al muro, che ho paura, resisto. Semplice è la via per il lato oscuro, poco tempo per correggere gli errori commessi. Dimmi dove buttare i miei sogni, dovrei passare tutta la vita a pensare alle cose che ho, alle cose che vorrei, al modo di raggiungerle e poi come difenderle. Ma io non so cosa avevo prima e non so quello che ho adesso. Sorrido ogni nuovo giorno perché vivo sperando che le persone che amo proseguano nel viaggio. Stammi a fianco a mirare dall'alto il paesaggio, la bellezza intorno. Da Torino a Catania, sopra un furgone, una breve tappa a Roma, città dell'imperatore. Indovina a Genova, le lacrime di luglio, il fondo delle paure forma di controllo. Dovrei passare tutta la vita a pensare alle cose che ho, alle cose che vorrei, al modo di raggiungerle e poi come difenderle. Ma io non so quello che ho adesso. Sono storie facili come quelle che ti raccontavano da piccolo. E tu credevi bene come è stato facile stare fermo immobile, chiudendo gli occhi e rinunciando a vedere. Sono storie facili come quelle che ti raccontavano da piccolo. E tu credevi bene come è stato facile stare fermo immobile, chiudendo gli occhi e rinunciando a vedere. Compra. Ho seguito i miei fantasmi, ora fantasma sono. Questo è quel che hai, perché tu lo vuoi. Hai, vuoi. Hai, vuoi. Hai, vuoi. Hai, hai, vuoi, vuoi, vuoi. Questo è quel che hai, perché tu lo vuoi. Quelle che ti raccontavano da piccolo, e tu credevi bene come è stato facile stare fermo immobile, chiudendo gli occhi e rinunciando a vedere. Sono storie facili come quelle che ti raccontavano da piccolo, e tu credevi bene come è stato facile stare fermo immobile, chiudendo gli occhi e rinunciando a vedere. Facili come quelle che ti raccontavano. più crede di bene. Quanto è stato facile restare fermo immobile, chiudendo gli occhi e rinunciando a vedere. E questi erano i Linea 77 con Fantasma. Linea 77, gruppo musicale alternative metal piemontese, formatosi nel 1993 a Venaria Reale. La loro musica è fortemente influenzata da quella di famosi gruppi statunitensi quali Deftones, Rage Against the Machine e Helmet. Il brano Fantasma è tratto dal loro terzo disco, Numb, pubblicato il 16 maggio del 2003 dalla Eresh Record. Bene, ora andiamo avanti un po' con questa puntata anomala di Radio Tagadà. Quattro interviste, quattro doppiette musicali. Le iniziative per questioni, insomma, di orario con l'ultima intervista con la compagna. Le iniziative della settimana in programma ve le proviamo a dire ora. Allora, partiamo appunto dalle iniziative di oggi, sabato 11 febbraio. Ci sarà Disabled Free Festival, il primo appuntamento di disabilità rivoluzionaria. L'iniziativa si terrà in Cox 18 sia sabato che domenica, in collaborazione con i Disabili Pirata. Il programma di sabato è dalle ore 16. Il movimento delle persone con disabilità dagli anni 70 a oggi. Intervengono Enrichetta Limena, giornalista freelance, autrice del libro Lotta per l'inclusione, il movimento delle persone con disabilità motorie negli anni 70 in Italia. Andrei Cechin, fondatore del movimento Disabili Pirata e presidente di Abbatti le Barriere. Matteo Schianchi, storico dell'Università degli Studi Milano Bicocca. A seguire cena aperitivo. Dopo la cena aperitivo, proiezione di Cree Camp, Disabilità Rivoluzionaria, un film documentario con regia e sceneggiatura di Nicole Newman e Jim Lebrecht, girato nel 2020. Il programma di domenica invece, dalle ore 16 ci sarà il concerto della band di Allegro Moderato e a seguire, intorno alle 17, incontro e discussione con Valentina Perniciaro, autrice del libro Ognuno ride a modo suo, storia di un bambino irriverente e sbilenco, edito da Rizzoli, casa editrice di Milano nel 2022, libera parola su disabilità e vita quotidiana. A seguire cena aperitivo e poi dopo la cena aperitivo proiezione di Rosso come il cielo, regia di Cristiano Bortone del 2005. Continuiamo con le iniziative. Ricordiamo che ci sarà sabato appunto il corteo a Milano, fuori a Fredo dal 41 bis, contro 41 bis, ergastolo e ogni prigione. Dalle ore 16 il concentramento è in piazza 24 maggio. Poi a ZAM dalle 5:30 ci sarà il mistero della fase azzurra, Made in ZAM. Sempre questo pomeriggio dalle ore 6 ci sarà Parliamo di Cuba, dibattito su condizioni sanitarie e repressione, incontro con il gruppo anarchico Galatea della FAI organizzato dal collettivo Casciavit dalla Scighera. A seguire ci sarà un aperitivo e cena popolare. L'iniziativa si terrà al laboratorio occupato Casciavit in via San Faustino 62 a Milano presso LOC dalle ore 18. Stasera sempre in Torchiera ci sarà un'iniziativa dalle ore 22 in poi, musicale Elettrica 02 dalle ore 22 in poi. Poi ci sarà Underground Tales Super Gatto Pirata, una serata organizzata a ZAM, sempre con un po' di DJ eccetera. Questo rientra all'interno della serie di appuntamenti di Underground Taste, Yard Mensile, hosted by Power Flog e Missy Red, questa volta con tutta la crew di Gatto Pirata, Grime Voice, Voltus, Mastino, Diesel, Sandro Su, Il Side, Easy One, Doi e DJ Park, suoneranno dalle 22 per tutta la serata. Bardato, drink è presa bene, vi aspettiamo numerosi ed entusiasti come lo siamo noi. Sabato sera dalle 22, questo è l'invito dello spazio ZAM per la serata in programma in via Sant'Abbondio 4. Passiamo alle iniziative di domenica, molto interessante. Ci sarà la grande festa apeina del tesseramento domenica 12 febbraio 2023 a Piano Terra a Milano. Torna la grande festa piena del tesseramento, una giornata a passare insieme dal pomeriggio fino a sera, dalle 15.30 alle 17 ci saranno i giochi per tutta l'età, dalle 15.30 alle 21 ci sarà un grande banchetto con gadget, magliette serigrafate, coperte termiche solidali, e questo banchetto affiancherà il punto di tesseramento per l'associazione proletaria escursionisti. Dalle 17 alle 18 ci sarà l'assemblea dei soci appunto dell'APE, e poi dalle 18 alle 19 giochi con le frontiere, un secolo di esclusione, conflitti e traguardi, per non farsi andare di traverso le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, un intervento attraverso le storie, gli episodi e le opposizioni alle Olimpiadi del Novecento. E poi ci sarà un aperitivo e infine un incontro con Francesco Cibadi, regista, e la proiezione di Omar. Ricordiamo che questa iniziativa, dove si andrà a parlare di Olimpiadi Milano Cortina, aggiungiamo già un'altra che ci sarà sabato prossimo, che sarà quella del secondo ciclo delle iniziative in vista della giornata di sport popolare del 19 marzo del 2023 per il ricordo di Dax. Ci sarà un racconto dell'opposizione alle Olimpiadi di Torino del 2006. L'iniziativa si terrà a ZAM, dalle ore 15 ci sarà un allenamento collettivo di box, di rugby, delle partitelle di calcio al parco Carlo Giuliani, e poi dopo ci sarà l'iniziativa appunto con dei compagni che ci racconteranno le modalità di opposizione alle Olimpiadi che ci sono invernali, che ci sono state a Torino nel 2006. Continuiamo con le iniziative, ricordiamo che le prendiamo da puntello.org, che è questo utilissimo strumento che negli ultimi mesi si sta sviluppando sempre più. Odiamo ogni maledettissimo lunedì, l'appuntamento settimanale in cascina d'orchiera, come ogni stramaledettissimo lunedì dell'anno ci sarà il mercatocchio di frutta, verdura, autoproduzione, la libreria, biblioteca, corso di yoga, le prove della banda degli ottoni a scoppio, la cena popolare vegana, musica, proiezione, presentazioni, dibattiti, convivialità ed autogestione. Ricordiamo, martedì invece ci sarà un'iniziativa ZAM, Confindustria nella Repubblica, la presentazione del libro di Elio Catania, martedì dalle ore 20.30 in poi. Poi ci sarà mercoledì, come al solito, la pizza Bella Vita, che si tiene il primo e il terzo mercoledì del mese in Villa Occupata. Ricordiamo che il mercoledì c'è sempre anche gli incontri diseducanti in casa Crescenzago a Milano. Poi in conchetta ci sarà, per il ciclo Non è mai troppo tardi, Io conoscevo bene la finanza, seconda puntata, Uno spettro si aggira per il mondo, la finanza. Ci sarà quindi una chiacchierata riguardo il capitalismo finanziario, il mantra neoliberista del mercato che si autoregola, un clamoroso falso ideologico dal 2008 al Covid, insomma tutta una serie di analisi a riguardo, e questo è il secondo appuntamento di questo ciclo di incontri che si tiene in conchetta a Milano. Gli incontri sull'educazione libertaria li abbiamo già citati. Poi giovedì ci sarà Il Corpo che Parla, sempre in cascina d'orchiera, la comunicazione non verbale a teatro nella vita di tutti i giorni. Questo è anche un appuntamento fisso, tutti i giovedì sera dalle ore 21. Venerdì un'altra interessante iniziativa, Piano Terra, racconti dalla Palestina, incontro con West Climbing Bank, dalle ore 19.30 cena sociale, alle ore 20.30 all'inizio dell'incontro con le cronache del recente viaggio in Cisgiordania. Le iniziative di sabato prossimo le racconteremo invece sabato prossimo. C'è un'altra iniziativa che, scusate, sto cercando di recuperare live perché non è stata pubblicata su questo sito, puntello.org, Furti di Bosco, una cena per conoscersi, per stare insieme e per parlare, una serata in cui si parlerà di casa, delle case gestite dalla MM di Milano, una panoramica generale di esperienza e confronto. Si parlerà in particolare della situazione delle occupazioni di via Torricelli 19, una genuina iniziativa che vedrà tra l'altro dare il ricavato della serata a chi colpito dalla repressione per le lotte portate avanti. Ci vediamo domenica dalle 16 per chi vuole cucinare assieme e dalle 20 per chi vuole mangiare insieme. Ricordiamo che questa iniziativa si terrà quindi domenica 12 febbraio dalle ore 16 in poi presso il Circolo Anarchico Bruzzi Malatesta, sito in via Torricelli 19. Bene, noi abbiamo concluso per oggi con le iniziative, ma andiamo avanti con la puntata. Scusate se vi sono dilungato, però ci sono sempre moltissime iniziative a Milano. Ora ci sentiamo un'altra doppietta musicale, gli Arsenico e The Fatstones, e poi torniamo in diretta con un'intervista con una compagna dove parleremo un po' di quello che è successo al CPR di via Corelli a Milano. Bye Dina. Doppietta musicale della puntata, abbiamo sentito prima gli Arsenico con il remix di Pochi Metri. Gli Arsenico, ricordiamo, gruppo punk della scena torinese, con il brano pubblicato nel 2004 all'interno del disco Forti di Incomprensioni Stabili. Proprio qualche mese fa ricordiamo che è uscito per la prima volta in formato vinile questo CD sotto l'etichetta di Motor City Produzioni. E poi ci siamo sentiti Strychnine, scusate, dei Fatstones, gruppo musicale statunitense di genere garage rock revival, formatosi nel 1980 e da allora ancora in attività, caratterizzato da un'immagine ispirata al cinema horror, come altri gruppi, i The Cramps e i Flashstones. Il brano che abbiamo appunto ascoltato si chiamava Strychnine, pubblicato nel 1985 all'interno del loro disco Lysergic Emanation. E torniamo in diretta con Radio Tagadà e concludiamo con la serie di interviste milanesi riguardo ciò che è accaduto in questa settimana all'interno dei lager milanesi. Come detto, proviamo a farci una chiacchierata con una compagna sulla situazione del CPR di Via Corelli. Ciao, ci senti? Sì, vi sento, ciao a tutte e a tutti. Ciao, grazie, benvenuta ciao. A Radio Tagadà. E niente, volevamo partire appunto più che dalla situazione ultima, dalla situazione in generale degli ultimi mesi nel lager di Via Corelli a Milano per i migranti. Va bene, allora intanto faccio una premessa che come assemblea, gruppo di Punto di Rottura, siamo molto in crisi. E purtroppo non stiamo riuscendo a seguire come si deve questa situazione delle CPR di Via Corelli. E diciamo che andrebbe sicuramente ripresa, infatti ringrazio per aver pensato di dedicare un po' di spazio a questo argomento, e avremo sicuramente bisogno di aiuto e di altri che decidessero magari di partecipare con noi, che siamo rimasti veramente in quattro a seguire questa terribile questione. E sì, allora effettivamente appunto negli ultimi mesi le notizie che seguiamo sono un po' quelle che possono seguire tutti, perché non riusciamo ad avere una nostra presenza là sotto. In generale, appena si sapeva di rivolte o di momenti di tensione, o comunque anche ogni tanto si andava a fare una presenza sotto, a lasciare un numero di telefono, e per cui per un certo periodo abbiamo avuto, diciamo, informazioni dirette. Ora non, in questo momento non più, per cui quello che vi riferirò sono questioni che insomma sono informazioni che non dipendono da una nostra diretta conoscenza di quello che accade. Corelli sì, è stato riaperto a settembre del 2020 in piena esplosione Covid. Hanno pensato bene che invece di dedicarsi a dare un po' di sostegno alle persone che stavano spaventando con il rischio del Covid, hanno pensato bene di riaprire questo centro di permanenza, che dovrebbe essere ovviamente, secondo le direttive, utilizzato per deportare. E quindi insomma in quel periodo, immediatamente nel dicembre successivo, ci fu una grande rivolta e ci furono diverse iniziative da davanti. Quello che appunto sappiamo è che la notte tra domenica e lunedì, con 72 presenze all'interno del centro, è scoppiata una rivolta che segue quella di Brunelleschi a Torino, che c'era stato il giorno prima, con materassi bruciati e autolesionismo. E Naturalmente un provvedimento che hanno preso, oltre a lasciarli 22 ore alla diaccia a dormire all'aperto o nella sala mensa piena di schifezze, avevamo fatto anche un video nel quale si vedevano le condizioni di estrema sporcizia e degrado, in quel caso sì, all'interno del centro di permanenza. Comunque quello che rimane dall'inizio, da quando li hanno aperti, rimane una costante, che sono centri nel quale prevale l'arbitrio totale, non c'è assistenza medica, non c'è assistenza appunto legale, non ci sono tutele. Se pensate che quando vengono, ci sono le retate, questi uomini e queste donne vengono presi su dalle strade e non gli danno neanche il tempo di poter contattare un qualunque avvocato. Gli avvocati di ufficio ovviamente sono persone in questo caso senza scrupoli, quindi vengono le prime visite che dovrebbero verificare se ci sono le condizioni per essere trattenute nei centri avvengono sempre senza alcuna tutela. Poi c'è la questione della gestione, anche quella del CPR, completamente arbitraria. Prima era l'Averso Proprio, Luna Nera, che poi hanno desistito perché le condizioni insomma di gestione sono anche quelle mica tanto facili, non danno più i soldi che davano una volta per ogni trattenuto lì dentro, che comunque continuano a chiamare ospiti, e per cui non gli viene fornito niente, cibo marcio fornito dall'Arca, la cooperativa Arca, cioè, ma proprio marcio. Ci hanno mandato foto di cibo scaduto con dentro insetti, ma non sono esagerazioni, è proprio vero. E quindi in queste condizioni qua ovviamente le rivolte si ripetono costantemente. Pensate che c'è, da quello che diceva il legale della rete no CPR, c'è un sono un rapporto 1-1, cioè ogni recluso ha un poliziotto che lo controlla. E in più c'è la questione appunto medica, per cui anche lì dei grandi pasticci, per cui insomma gli stessi medici che erano già stati segnalati per la loro collusione totale col sistema appunto delle reclusioni e deportazioni sono poi gli unici che hanno avuto, perché risultavano nella gara d'appalto. Insomma, per queste cose ci sarebbe bisogno, credo, di un'intera trasmissione. A me viene da darveli un po' così a spot, perché ci sarebbe bisogno veramente di tanto tempo. Peraltro stavo parlando della gestione, poi è passata ad Engel Italia, che era già stata inquisita per maltrattamenti nel CPR di San Gervasio, da cui è uscito un video in cui si vede veramente come vengono costantemente pestati e maltrattati. E poi senza nessuna gara d'appalto sarebbe passata questa Martinina, che è sempre di Salerno, e che è passata così la gestione Martinina con un scamottage in cui l'Engel Italia passava un ramo della sua azienda a questa Martinina. Quindi per dire che sono completamente abbandonati a se stessi quelli che vengono messi là dentro, vivono delle condizioni ma veramente estreme, che vanno appunto da non essere, non hanno da mangiare, in più non hanno neanche come nelle carceri un fornelletto per cucinare, quindi da un pasto all'altro se hanno fame devono per forza ricorrere alle macchinette in cui c'è del cibo scadente, e che devono anche pagare a suon di quattrini. E cosa dire, che la maggior parte delle persone che sono dentro vengono dal Marocco, dalla Tunisia, dalla Nigeria, dall'Egitto, dal Gambia, dall'Algeria, poi a seguire Pakistan, Bangladesh e Sud America, e naturalmente vengono soprattutto deportati coloro i quali provengono da paesi con l'Italia ha degli accordi. Vengono presi e portati a Gradisca, infatti molti dei rivoltosi di domenica notte sono stati spostati a Gradisca, perché da lì poi vengono portati a Palermo e da Palermo deportati, e altri nel CPR di Bari. Anche quando ci sono state visite all'interno fatte dagli unici che possono entrare, parlamentari o senatori, anche lì le informazioni che le sono state date a chi è entrato sono veramente all'osso. Tra l'altro non, non consegnano per avere la documentazione medica, c'è stata insomma una bella difficoltà. E hanno fatto uscire questo testo che si chiama Delle pene senza delitti, che viene presentato credo anche alla Bocconi oggi pomeriggio, e dove insomma per chi continua a non voler sapere nulla dell'esistenza di questi lager che esistono ormai da 21 anni o 23 anni, potrebbe insomma magari anche leggersi soltanto questi resoconti. Io non so, vi ho detto tutto molto velocemente, se c'è qualche cosa che mi volevi chiedere sono qui. Ma la situazione che hai spiegato, penso l'hai spiegata in maniera abbastanza esaustiva ed eloquente. C'è stata l'ultima rivolta pochi giorni fa, ricordiamo anche che c'è stata una rivolta nel CPR di Torino che è stato praticamente semidistrutto e la capienza è ridotta di un terzo, e queste rivolte sono avvenute in maniera contemporanea. E secondo noi è anche molto importante, insomma, ok, focalizzarsi, cioè è importantissima la questione di Alfredo, c'è un compagno che sta morendo in galera, però come dicevamo anche con un'altra compagna che abbiamo intervistato, ci sono altri reclusi in altre carceri, lo Stato continua con la sua repressione nei suoi lager, c'è il minorile, Beccaria, c'è Opera a Milano, ricordiamo, c'è Bollate, c'è San Vittore, c'è il CPR di Via Corelli, e poi così continuando, insomma, in tutta Italia ci sono persone che vengono continuamente recluse e vessate. Da notare, da sottolineare, diciamo che la gestione del CPR è praticamente meramente economica, cioè lo Stato delega a delle aziende esterne che poi molte volte sono anche tra virgolette parastatali, o comunque che so, quando c'era la gestione da parte della Misericordia, della Croce Rossa, comunque il ritorno era nettamente economico, lo facevano solo per una questione economica. Ecco, trattare in maniera così i migranti, dei senza documento, buttarli in un lager, rinchiuderli e cercare di farci profitto, questa è la rappresentazione massima del CPR. Quindi non lo so cosa c'è da aggiungere, se non speriamo che insomma questa lotta e questa opposizione si rivitalizzi e ci siano un po' di persone, come hai detto tu, che rinizino ad interessarsi a riguardo, perché comunque gli internamenti continuano ad andare avanti, anche le deportazioni continuano ad andare avanti, di sicuro non si fermano. Sì, poi volevo dire, visto che hai parlato di Alfredo, che sono certissima che ad Alfredo interessa che noi ci occupiamo dei reclusi del CPR, quindi non è che ci sia da mettersi in contrapposizione, ovviamente. Rispetto a quello che dicevi dei fare profitto, la Misericordia, visto che io vengo da Bologna e la lotta contro i CIE, che si chiamavano così allora, è stata insomma una lotta a cui mi sono dedicata anima e corpo. La Misericordia a suo tempo prendeva 70 euro a recluso per giorno a Bologna e 72 a Modena, o viceversa, ma non importa. Quindi sì, c'è stato un tempo in cui effettivamente era una questione di profitto, adesso penso che sia più una questione di minaccia, di ordine pubblico, perché chi prende in gestione questi posti non ci guadagna più così tanto e infatti lasciano di conseguenza uno all'altro. Poi ai tempi della Misericordia, perché la Croce Rossa ci fu solo all'inizio, ai tempi della Misericordia per esempio non dovevano offrire tutti i servizi, adesso per o 25 euro 40 come dicono degli ultimi appalti devono offrire proprio tutto, quindi figuratevi, già allora andavano sicuramente i soldi se li teneva a Misericordia, ma adesso avendo anche entrate più scarse potete immaginare che tipo di servizi vengono forniti. Mi sono scordato solo di dire che non hanno assistenza sanitaria, ma li riempiono di psicofarmaci, e questo rimane un dato che sin da 20 anni a questa parte ovviamente rimane fortissimo, perché li sedano continuamente, ecco, per tenere a bada le rivolte e gli atti appunto di resistenza a questo atroce reclusione, che è di tipo amministrativo, questo lo sappiamo, no? Peraltro non hanno commesso neppure alcun reato quelli che sono trattenuti lì. Sì, poi la questione dei psicofarmaci è un minimo comune denominatore di sicuro all'interno dei lager italiani anche nelle carceri viene fatto un uso massiccio. Bene, noi ti ringraziamo e speriamo di risentirci prossimamente riguardo questa argomentazione in propositivo, sperando che nasca un interesse generale, appunto nascano anche delle mobilitazioni. Come dicevi tu, questa cosa non va in contrapposizione, ma anzi deve essere una cosa che dovrebbe andare in parallelo, l'opposizione a tutte le tipologie di carceri e di lager che ci sono sui nostri territori. Noi ti ringraziamo e ti mandiamo grazie un abbraccio e ci sentiamo alla prossima. Grazie mille. Ciao a tutti. Bene, noi siamo in conclusione di programma, ci sentiamo l'ultima traccia si chiama Nib dei Black Sabbath. I Black Sabbath sono stati un gruppo musicale heavy metal britannico formatosi a Birmingham nel 1968 e scioltosi dopo un tour d'addio nel 2017. La formazione storica era costituita da Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler e Billy Ward, rimasta invariata dal 1969 al 1978. Nib è la traccia numero 4 del loro primo album, l'omonimo, The Black Sabbath, uscito il 13 febbraio del 1970, edito dalla Vertigo Records negli UK e il 1 luglio del 1970 dalla Warner Bros. In Nord America. Si riteneva che il titolo della canzone fosse l'acronimo per Nativity in Black, Natività in Nero, oppure Name in Blood, Nome del Sangue, mentre in realtà, come spiegato da Geezer Butler, il bassista, in un'intervista del 1992, era il nomignolo del batterista Billy Ward a causa del taglio particolare della barba. Infatti gli altri componenti della band pensavano che il suo pizzetto fosse affilato come un pennino, Nib in inglese. Bene, noi siamo ora ai saluti, ricordiamo che con Radio Tagadà andiamo in diretta ogni sabato dalle 14.30 alle 16. E potete scriverci sempre via Telegram al 351 5579 698, oppure per email a radiotagadà@autistici.org. potete sentirci in FM e in streaming e anche in DAB cercando il canale Onda d'Urto. Bene, noi vi salutiamo e vi lasciamo a questo bellissimo pezzo che ha scelto per noi il nostro buon DJ Dynamite, Nib dei Black Sabbath. A presto e saluti, e come al solito ci sentiamo in radio e ci vediamo in strada. I'm